singolo in condizioni che non riesci ad immaginare, una vita senza giochi, solo a lavorare, senza futuro, ma con tanta voglia di andar via, ma l'unica certezza sarà una malattia. Piccoli eroi stanchi, piccoli eroi stanchi, non si vedono ma sono tanti, piccoli eroi stanchi, piccoli eroi emarginati, piccoli eroi stanchi, saranno sempre umiliati. Vivono in qualche palazzo in periferia, hanno imparato a scappare dalla polizia, hanno genitori assenti che li abbandonano in PC, tra violenza e viti non si può vivere così. E poi a scuola li etichettano con una sigla, non si integrano, dicono che portano sfiga, disadattati sopravvissuti alla nuova guerra, si rialzano ma cadono sempre a terra. Piccoli eroi stanchi, piccoli eroi stanchi, non si vedono ma sono tanti, piccoli eroi stanchi, piccoli eroi emarginati, piccoli eroi stanchi, saranno sempre umiliati. Sono in tanti ma tu preferisci non vedere, perché ti devi lamentare se non trovi il posto a sedere. Sono in tanti ma in fondo che te ne fregate, basta che non sia bellino e vogliano il collare. Se stanno male non se ne coglie nessuno, tutto il giorno a respirare fumo, non è la vita che dovrebbero fare alla loro età. A me fa sempre più schifo questa società. Piccoli eroi stanchi, piccoli eroi stanchi, non si vedono ma sono tanti, piccoli eroi stanchi, piccoli eroi emarginati, piccoli eroi stanchi, saranno sempre umiliati. E non lo sai, ma anche tu contribuisci allo sfruttamento ogni volta che scegli un nuovo capo di abbigliamento, ogni volta che cambi il modello di telefonino, non sai quanta sofferenza in un lontano bambino. Piccoli eroi stanchi, piccoli eroi stanchi, non si vedono ma sono tanti, piccoli eroi stanchi, piccoli eroi emarginati, piccoli eroi stanchi, saranno sempre umiliati. Vivono in strada, vite disagiate, in periferie degradate, abbandonate, condannati senza avere commesso reati, rinchiusi come fossero carcerati. Molti sognano ancora la libertà, altri si lasciano andare, fuggono via di qua, e anche se sorridere diventa sempre più difficoltoso, spesso sognano un futuro favoloso. Piccoli eroi stanchi, piccoli eroi stanchi, non si vedono ma sono tanti, piccoli eroi stanchi, piccoli eroi emarginati, piccoli eroi stanchi, saranno sempre umiliati. Piccoli eroi stanchi, piccoli eroi stanchi, non si vedono ma sono tanti, piccoli eroi stanchi, piccoli eroi emarginati, piccoli eroi stanchi, saranno sempre umiliati.